GR24, il sole 24 ore. Lanci di petardi e tensione alla manifestazione dei lavoratori al COA, un ferito e contestazioni ai politici. PIL ancora in calo, meno 2,6%, l'Istat rivede al ribasso le stime, i dati peggiori da fine 2009. Strage sulle Alpi francesi, gli artificieri britannici nella casa della famiglia uccisa, trovato materiale sospetto. Milano sceglie il registro delle unioni civili e al via da oggi. Buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. E allora torniamo subito a Roma, una capitale blindata dove stanno ancora protestando i lavoratori al COA. L'avevano promesso, sono arrivati questa mattina per farsi sentire mentre è cominciato il tavolo al Ministero. Ci sono stati tafferugli e allora ci racconta però tutto Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, la situazione è sempre ad altissima tensione qui al Ministero, mentre è in corso il tavolo tecnico, i manifestanti hanno invaso via Molise, quindi si trovano a pochi passi dal portone d'ingresso e tentano ripetutamente di rompere il cordone delle forze dell'ordine. Continua il lancio di petardi, di fumogeni, di bombe carta, c'è stato anche un ferito seppur lievemente tra i manifestanti, mentre è stato spintonato il responsabile economico del PD Fassina, costretto ad allontanarsi, lanciati anche sassi contro un blindato della Guardia di Finanza, tafferugli con la polizia che impediva l'accesso alle altre strade che costeggiano il Ministero. Ma c'è da dire che alcuni manifestanti hanno formato un servizio d'ordine per cercare di controllare il presidio, cioè comunque tanta rabbia, la rabbia dei lavoratori del Sulcis che oggi attendono risposte dal governo. Sentiamo allora la voce di una di loro. Quello che noi chiediamo, il problema strutturale è la risoluzione del problema sulle tariffe energetiche. Noi non chiediamo niente di impossibile, è possibile produrre alluminio primario in Italia, lo dice lo stesso governo. Noi chiediamo che ci possano essere delle condizioni che se non altro rendano l'Italia competitiva come altri paesi d'Europa. Alcoa, che al momento è la proprietaria dello stabilimento a Portovesme, produce anche in altri paesi d'Europa, in quei paesi dove, tipo la Spagna, dove si produce alluminio primario a condizioni differenti, perché si possono fare degli accordi bilaterali con i produttori di energia elettrica. Noi chiediamo perché in Italia questo non è possibile. E intanto una delegazione di lavoratori di Alcoa è entrata, quindi partecipa al tavolo con il governo, i sindacati, le regioni, i rappresentanti dell'azienda. Al centro, come sappiamo, il destino dello stabilimento sardo è quello di almeno 800 buste paga. Bisognerà capire se ci sarà l'apertura di una vera trattativa per la vendita della fabbrica sulla quale tutti confidano. Già, Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi, naturalmente continueremo ad aggiornarvi. Intanto però non sono incoraggianti i dati diffusi oggi dall'Istat, rivisto al ribasso il PIL, e ancora una volta ad incidere sono i tagli ai consumi delle famiglie, costrette a ridurre i consumi per la crisi. Il problema è lì, è il cane che si morde la coda, tutti lo sanno, ma pare che altra soluzione non ci sia. Bisogna tirare la cinghia, fare sacrifici, così facendo però le persone non spendono, non possono, in molti casi, non se la sentono in tutti gli altri. Il dato sul prodotto interno lordo non è buono, ma non si tratta di un fulmine a ciel sereno. La flessione nel secondo trimestre è stata dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il tendenziale è il peggiore dal 2009. E rispetto alla stima preliminare, diffusa ad agosto, la realtà è stata più pesante. Dunque, la domanda interna è ridotta al lumicino. La spesa delle famiglie nel trimestre in questione ha registrato un calo complessivo pari al 3,5%. Si taglia di più laddove si può, i beni durevoli, meno laddove non si può sempre risparmiare, ovvero beni non durevoli e servizi. Ma accusano il colpo tutti i settori economici, l'agricoltura, l'industria, i servizi, anche se per questi ultimi la flessione è più contenuta. Giù gli investimenti, mentre tengono le esportazioni, un punto di forza indispensabile. Valeria De Rosa, Radio 24, il sole 24 ore. PIL che potrebbe essere ben più alto senza la corruzione, questo almeno stando all'appello arrivato ieri da Cernobbio. La stima è che pesi tra il 2 e il 4% del PIL. Il governo ha promesso di intervenire e allora Anna Marino ha sentito Walter Mapelli, autore del libro La Cancrena, oltre che il PM che indaga sul cosiddetto sistema sesto, sulla corruzione nell'Interland milanese negli ultimi anni. Moltissime delle aziende che sono fallite, che lavoravano con la pubblica amministrazione, avevano dei fenomeni di corruzione. Viene definito utile, urgente, prioritario l'approvazione appunto del nuovo decreto anticorruzione, secondo lei? È prioritario, però il problema non è fare le riforme velocemente, fare delle riforme fatte bene. Ci sono dei punti che lei migliorerebbe? Sarebbe molto più semplice, come dire, uno schema unico di corruzione con eventualmente poi delle circostanze attenuanti o aggravanti a seconda del tipo di corruzione. Quindi sarebbe meglio definire il reato di corruzione? Un fatto di corruzione, che può essere, voglio dire, il pubblico ufficiale che indebitamente riceve in relazione al suo ufficio, come non dovuto, utilità o altre utilità. E per quanto riguarda il testo all'esame, che appunto verrà esaminato domani, secondo lei non c'è questa semplificazione del fatto di corruzione? Rimangono, la struttura del reato rimane quella che è, non è che cambia, vengono, per carità, vengono inasprite le pene, viene introdotta la corruzione tra privati senza il limite della querela, quindi c'è un certo, come dire, miglioramento, lo possiamo anche individuare, ma il nodo di fondo rimane. Nulla di fatto per la Grecia, è durato meno di un'ora e si è concluso pochi secondi fa, in pratica con nulla di fatto, il programmato incontro tra il premier greco Samaras e i rappresentanti della Troika, Unione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Fonti vicine al governo greco hanno rivelato che la Troika è rimasta sostanzialmente sulle sue posizioni e non sembra essere stata convinta dalle argomentazioni del premier ad adottare misure alternative nei tagli necessari a risanare il bilancio del paese. Ma torniamo in Italia con il nostro tema politico di oggi. Il punto di Stefano Folli. C'è un punto che unisce Bersani e il PDL, il partito di Berlusconi, che in questa occasione parla attraverso Alfano. L'impossibilità di dire sì a un governo Monti dopo le elezioni. Nessuno dei due maggiori partiti può accettare il Monti bis in questa fase, ora che comincia la campagna elettorale, occorre legittimarsi davanti agli elettori. Vorrebbe dire rinunciare alla propria identità, almeno secondo un certo schema tradizionale. Perché, come dice Bersani, il premier lo scelgono gli italiani e non i banchieri. Diverso il caso di Casini, che è sempre stato a favore di Monti e continua a esserlo con coerenza. In sostanza si sta creando un doppio mercato, chiamiamolo così, il mercato politico italiano, che va avanti secondo i suoi rituali, con una certa dose di debolezza, di impaccio e non senza una qualche demagogia ben distribuita. E poi c'è il mercato politico istituzionale costituito dall'Europa, dagli organismi dell'Unione, dai nostri maggiori partner. Costoro la loro scelta l'hanno già fatta, vogliono che l'Italia continui sulla strada intrapresa e vogliono che ci sia Monti come garante. I due mercati per adesso vanno in parallelo e sarà così ancora per molto tempo, fino alle elezioni, il che naturalmente presenta e presenterà parecchie incognite. Di parecchie incognite dunque parla Stefano Folli, tra queste l'astensionismo è tra le più ingombranti, secondo alcuni sondaggi si attesterebbe al 46%, un fenomeno cresciuto negli anni. Dario Tuorto è un ricercatore dell'Istituto Carlo Cattaneo. È sicuramente un problema di lungo periodo, dalla fine degli anni 70 abbiamo un trend di crescita in Italia e in altri paesi appunto dell'astensionismo, a fronte di una domanda di nuova politica, una domanda di politica rinnovata, ma è proprio qui il problema, cioè la nuova offerta dei partiti. In questa fase in particolare si innestano, a mio avviso, sulla dinamica astensionista che già c'era, appunto, che è qualcosa di presente negli ultimi 20 anni, si innesta la questione della crisi, che è crisi economica e crisi politica assieme. A fronte di dati sempre peggiori sull'economia, sul mercato del lavoro e a fronte di una situazione politica bloccata, soprattutto nel caso dell'Italia, ovviamente l'elettore si pone appunto l'interrogativo su quale possa essere la risposta. Se la crisi economica è vista come un problema della società e se la crisi politica è vista come qualcosa di irrisolvibile, è evidente appunto che la conclusione è le istituzioni non danno risposta, non possono dare risposta, i cittadini hanno sempre minore controllo sulle proprie vite, di conseguenza l'ipotesi astensionista diventa un qualcosa di più concreto. Notizia dell'ultima ora appena battuta dalle agenzie, i medici sociali del Pescara Calcio, Ernesto Sabatini del Livorno, Manlio Porcellini e del medico del 118 di Pescara, Vito Molfese, sono indagati per omicidio colposo. La vicenda, ricorderete, è quella della morte del calciatore livornese Pier Mario Morosini, avvenuta allo stadio Adriatico il 4 aprile scorso. Per il momento non ci sono altre notizie, vi aggiorneremo quando ci saranno. Potrebbero arrivare invece novità sulla strage sulle Alpi francesi, Andrea Viali. Sia così, novità che però non arrivano dalla Francia ma dalla periferia di Londra, dove stamattina la polizia britannica ha fatto evacuare tutta la zona attorno all'abitazione della famiglia britannica vittima della strage. Sul posto sono arrivati gli artificieri, gli investigatori avrebbero trovato del materiale sospetto, forse un ordigno rudimentale, nella casa dell'ingegnere di origine irachena, ucciso, lo ricordiamo, nella sua auto sulle Alpi francesi con moglie, suocera e anche con un ciclista francese di passaggio. La vicenda si tinge sempre di più di giallo, quindi a sopravvivere alla strage sono state solo le due figlie della coppia. La più piccola, di 4 anni, è rimasta illesa, si è salvata nascondendosi per ore sotto il corpo della madre, non avrebbe però fornito elementi utili agli inquirenti francesi, che ora aspettano di sentire anche la sorella di 7 anni, che invece era rimasta gravemente ferita, è stata operata ieri, è uscita dal coma farmacologico ma è ancora sotto sedativo. Ci vorrà quindi del tempo per sapere cosa ricorda. Per ora è tutto. Grazie Andrea Viali. Settembre è tempo di scuola, da oggi si ricomincia, ma in che scuole portiamo i nostri figli? È di questo che parleremo oggi in Scuola in Controluce con Maria Piera Ceci. Buongiorno. Buongiorno Anna, sì, parliamo di questo perché crediamo davvero che avere scuole poco sicure sia il problema principale della nostra scuola, tanto che il sindaco di Campobasso, lo risentiremo alle 13.30, ha deciso di tenere chiuse le scuole della sua città proprio perché non vuole nessuno sulla coscienza, ci ha raccontato. Di certo non vogliamo creare allarmismi, non è che tutte le nostre scuole rischino di crollare da un momento all'altro, però i dati che ci snocciolerà Cittadinanza Attiva danno sicuramente da riflettere. E la mamma di Vito Scafidi, ricorderete, il 17enne morto nel 2008 nella scuola di Rivoli, sarà mercoledì in Senato per proporre di utilizzare per l'edilizia scolastica anche l'8 per 1000. Sentiamola allora Cinzia Caggiano. Nessuno può morire a scuola. Il genitore è pronto all'incidente stradale, è pronto alla malattia, ma quando i nostri figli sono a scuola noi dovremmo essere tranquilli. Siamo più preoccupati se stanno male e restano a casa che non quando sono a scuola, ma Vito ha spostato questa cosa qui. A scuola si può morire. E non solo per colpa del terremoto, anche solo se sbatte una porta. Ecco, queste le parole di Cinzia Caggiano, la mamma di Vito Scafidi. La risentiremo in Scuola in Controluce alle 13.30, intervisteremo anche il sindaco di Campobasso e sentiremo anche cosa ne pensa su tutto questo il Ministero della Pubblica Istruzione. Scuola in Controluce alle 13.30. Te Anna. Di tutto questo abbiamo già parlato, riprendiamo da un anniversario che ormai si avvicina. Domani sarà l'11 settembre, mentre l'America aspetta ancora il suo memoriale. Domani New York celebrerà 11 anni dagli attentati alle Torri Gemelle. Sarà una giornata di polemiche perché non verrà inaugurato il Museo della Memoria Ground Zero. L'inaugurazione slitta per questioni di soldi tra il sindaco Bloomberg e il governatore dello stato di New York Cuomo. Non hanno ancora deciso chi dovrà pagare e gestire il memoriale. Un attentato, quello al cuore di New York, che aprì lunghi capitoli di guerre. Quasi simbolicamente, però, oggi, a distanza di 11 anni, a Bagram le chiavi di una delle prigioni divenute storiche per le torture inferte dall'esercito americano ai detenuti talebani passa agli afghani, che non hanno voluto deroghe sulla consegna. È un momento fondamentale della storia, ha detto il generale John Allen, il comandante in capo dell'esercito afghano, che ha parlato durante la cerimonia solenne con la quale gli Stati Uniti hanno consegnato alle autorità afghane oltre 3.100 detenuti della prigione. Sotto accusa per denunce di maltrattamenti ai prigionieri afghani, molti dei quali talebani, la prigione di Bagram è arrivata ad accogliere più detenuti di quella di Guantanamo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 ore. L'Europa deve unire e non dividere, un messaggio agli euroscettici, quello del premier Mario Monti questa mattina da Sarajevo. Siamo convinti che la Bosnia-Erzegovina costituisca un tassello molto importante anche per quello che storicamente rappresenta del processo di allargamento dell'Unione Europea. La Bosnia può arricchire l'Europa allargata con le sue peculiarità storiche, culturali, etniche e religiose. Ma è importante che anche nei confronti dei paesi che appartengono e appartengono da tempo all'Unione Europea, l'Unione Europea abbia la capacità di unire e non di dividere. E ad andare al voto è l'Olanda. Fino a sabato i pronostici lo davano indietro di un seggio rispetto a Rutte. Poi l'istituto Ipsos ha rivisto i dati sulla corsa olandese ed ora i laburisti del PDVA e i conservatori del VVD, entrambi a 35 seggi, formano una quasi maggioranza del 50% in una Camera dei Deputati che di seggi ne mette a disposizione 150. I due partiti, entrambi europeisti ma con sfumature diverse, sono indicati come alleati per forza nel futuro governo, per formare il quale si prevedono lunghe trattative. Si pronostica la necessità di cooptare anche i democratici liberali di sinistra, D66, che stando ai sondaggi darebbero altri 11 seggi ad una maggioranza altrimenti davvero troppo risicata. Il tradizionale alleato dei conservatori, il Partito Cristiano Democratico, appare ormai in crisi e in netto calo tra gli elettori che non gli perdonano l'alleanza con lo xenofobo Wilders. Un voto, quello olandese, che coinvolge meno del 2% dei cittadini europei, ma che viene considerato foriero di gravi conseguenze per tutta l'area del Nord. Gigi Donnelli, GR24, Sole 24 Ore. E campagna elettorale americana in discesa almeno economicamente per Barack Obama. Il presidente ha raccolto in agosto oltre 114 milioni di dollari. Mitt Romney ne ha raccolti oltre 111 di milioni di dollari. Ma è la prima volta che il presidente supera l'avversario, almeno per quanto riguarda il portafoglio. Appuntamento, vi ricordo, alle 13.45 con America 24. Ora torniamo in Italia, invece torniamo a Scampia, periferia nord di Napoli. Si parla di nuova faida di camorra, 42 morti tra Napoli e provincia dall'inizio del 2012. Come nel 2004 si combatte per il controllo delle piazze della droga, dice Alessandro Pennasilico, magistrato della direzione distrettuale antimafia partenopea. L'ha intervistato Raffaella Calandra. Ci confermano un po' delle preoccupazioni che stavamo già accumulando da un po' di mesi. C'è un fermento criminale per il controllo di una piazza di spaccio che è una delle più importanti di Europa. Crediamo che ci siano state ulteriori scissioni all'interno dei gruppi che si erano formati a seguito della detta faida. Quella del 2004. Quella del 2004 che registrò 70 morti. Si tratta presumibilmente di una scissione all'interno di quelle che erano le famiglie vincenti del 2004. Riteniamo che i gruppi vincenti di una volta si siano a loro volta divisi e ricominciata l'occupazione del territorio. È facile prevedere che ci possano essere altri delitti per vendicare quelli che ci sono state? Non posso essere ottimista. La preoccupazione ovviamente per le persone per bene, che in quel quartiere sono tante e sono esposte a rischi che nemmeno si possono immaginare. Andiamo invece a Milano, dove il registro delle unioni civili da oggi è realtà. L'assessore all'anagrafe Daniela Benelli l'ha voluto annunciare anche sulla sua bacheca di Facebook. Da oggi infatti a Milano debutta, dopo una genesi travagliata, il registro delle unioni civili. Le coppie interessate potranno materialmente iscriversi però dalla prossima settimana, dal 18 settembre. Per registrarsi già da oggi sarà necessario prendere un appuntamento. Poi le coppie munite di documenti d'identità potranno presentarsi nell'apposito ufficio. Potranno registrarsi due maggiorenni di sesso diverso o uguale, appartenenti a qualsiasi nazionalità ma residenti e coabitanti a Milano. Sul sito del comune anche le modalità di cancellazione nel caso di cambio di residenza per una delle due persone o qualora il legame affettivo dovesse essere sciolto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo Apple e Samsung, altre partite tecnologiche passano dai tribunali di mezzo mondo. Questa volta la battaglia è, sentite un po', sul futuro della televisione. Da quando è esploso il fenomeno globale degli smartphone, ci siamo abituati a cause e controcause tra le principali aziende del settore per furto di proprietà intellettuale. In realtà è tutto il mondo dell'elettronica di consumo a passare spesso dai tribunali e a fare lavorare molto le spie. L'ultima storia arriva dalla Corea del Sud, dove hanno sede due giganti della produzione di televisori, Samsung ed LG. Entrambe stanno lavorando alla tecnologia che fra qualche mese sarà su buona parte dei nuovi pannelli, la tecnologia OLED. Da mesi si vedono prototipi in tutte le fiere internazionali, ma ancora non si sa quando i prodotti saranno sul mercato. Nel frattempo, ecco che cosa succede dietro le quinte. Ad aprile 11 persone, sì, 11 persone, vengono arrestate in Corea, nel quartiere generale di Samsung, con il sospetto di avere venduto informazioni segrete sulla produzione di TV OLED ai rivali di LG, che pochi mesi dopo ammettono: sei degli arrestati sono nostri dipendenti. Settimana scorsa Samsung formalizza le accuse in tribunale, dando dei copioni ad LG. Ultima notizia che sembra collegata alla Spy Story: due TV, due prototipi che Samsung avrebbe dovuto esporre all'IFA di Berlino la settimana scorsa, sono scomparsi durante il viaggio. Per il momento la storia si interrompe qui. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altra notizia dell'ultima ora: c'è stato un incendio nelle cisterne dell'ENI a Taranto. C'è un operaio ustionato e c'è una colonna di fumo scuro e denso, visibile a diversi chilometri di distanza, che sta attraversando la città. Già in corso i controlli. Ma siamo allo sport e allora buongiorno Carlo Genta. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Un weekend senza il calcio di Serie A, come sapete, perché c'è la nazionale che venerdì ha pareggiato in Bulgaria, che domani presumibilmente non pareggerà ma vincerà contro Malta a Modena. E intanto è stato un weekend in cui hanno brillato le stelle di Errani e Vinci. Regine di New York hanno dominato la finale del doppio e oggi verrà formalizzata per la prima volta una coppia totalmente italiana in testa al ranking mondiale del doppio femminile. Era già successo a Pennetta, ma in coppia con Dulco, che italiana non è. Brillantissima anche la stella di Fernando Alonso con il terzo posto di Monza, che però vale un primo posto, perché il weekend era stato difficilissimo, e soprattutto vale 37 punti di vantaggio su Hamilton in classifica mondiale, Hamilton che ha vinto la corsa. Ma sempre nei motori anche il sesto titolo mondiale, ed è tanta roba per Cairoli nel cross, e Biaggi che torna in testa alla Superbike. Parleremo di tutto questo oggi, magari anche di Contador, che ha vinto la Vuelta non senza polemiche, alzando sette dita come i successi della sua carriera, compresi quelli che gli sono stati tolti per doping. E parleremo ovviamente anche di calcio. Tutto questo in Tutti Convocati alle 14. Alle 14 ti aspettiamo, Carlo Genta. Ora invece c'è GR Spettacoli, poi vi ricordo invece Italia in Controluce, Roberto Scaltritti in regia. Da me per il momento è tutto, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR 24, vi ricordo, arriva alle 14, torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del nostro GR Spettacoli. Per ora per Marco Bellocchio in sala è flop. Dopo la delusione veneziana in quattro giorni di programmazione, il film ha incassato solo 392.966 euro, 62.455 biglietti staccati. E sulle polemiche per i mancati premi alla Mostra del Cinema di Venezia, taglia corto la giurata Laetitia Casta. Anche in Francia ci siamo rimasti male per Cannes, Garrone non ha colpe. Anche in Cannes per noi la delusione per le femme francesi, è normale, è così. Dove accettare questa cosa? E Matteo Garrone, lui è stato fantastico, non è il suo tutto, non è sotto le sue spalle, deve essere molto gentile con lui perché è stato veramente un italiano vero. Io ho avuto un amico, avanti di venire a fare il giurì, che mi ha dato un consiglio fantastico, mi ha detto: guarda i film con generosità, che tu fa parte del progetto, così vedi prima le cose positive e poi dopo guarda in una maniera un po' più oggettiva. È stato un consiglio fantastico e il giuri siamo stati tutti uniti, anche appassionati, anche a volte molto tranquilli, ma è stato veramente un giuri giusto. E alle polemiche sui numeri in calo della mostra risponde il direttore Alberto Barbera. Guarda, in realtà pochi rispetto a quello che ci aspettavamo, perché sappiamo che la crisi colpisce duro, tocca tutti, non lascia fuori nessuno, né quelli che vengono inviati dai media o dalle istituzioni o dalle case di produzione, né quelli che vengono a spese proprie, quindi tutto sommato sono molto poche le defezioni, diciamo così. Sono molto contento perché le sale invece erano quasi sempre piene, nonostante l'aumentato numero di repliche dei film, il che ha consentito a tutti anche di vederle in condizioni, credo, un po' più agevoli, poter scegliere fra orari diversi, eccetera. Tornando al box office, questo fine settimana però nessun incasso strabiliante, neanche per i blockbuster. L'ultima pellicola Disney, Ribelle, in cinque giorni ha raccolto poco più di 2 milioni di euro. Se l'Italia non ride, l'America piange. Weekend nero per il box office statunitense, dove nessun titolo ha toccato la soglia minima dei 10 milioni di dollari. In cima alla classifica, con un incasso di 9,5 milioni, si conferma comunque l'horror The Possession. È morto in Australia il cineasta, ambientalista marino e paladino degli squali Ron Taylor. Taylor aiutò a filmare le terrificanti scene del film Jaws. E Aileen Nile Maranjes, 25 anni, di origini argentine, la vincitrice di Miss Italia nel Mondo edizione speciale, dedicata alle ragazze straniere che vivono in Italia. Aileen vive a Ragusa, dove lavora come commessa per amore di Alessandro. E la prima delle due serate TV di Miss Italia è stata seguita ieri da 3.059.000 spettatori, pari al 18,20% di share. Un debutto in aumento rispetto a un anno fa per Miss Italia 2011. L'annuncio è di questa mattina: tornano per due date in Italia i Sigur Rós. Accadrà in febbraio, il 18 a Jesolo e il 19 ad Assago. Biglietti in vendita da venerdì 14 settembre. E per il GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.